La sanità lombarda, la gestione dell'emergenza nella regione, torna non solo a far discutere, ma accende uno scontro parlamentare durissimo ai limiti della rissa. La giornata di ieri porta il riaccendersi degli animi politici e scene francamente evitabili in una fase ancora piuttosto delicata. Una fase di informazioni contraddittorie, sindaci, presidenti di regione, governo che si scagliano contro gli assembramenti e promettono nuove strette, ma mancano ancora gli strumenti immaginati per gestire questa fase 2, dai reagenti per i tamponi all'app di tracciamento. Si ragiona sul turismo, ma come se ancora non si sa quali regioni riapriranno e verso quali regioni si potrà viaggiare? Questo virus è ancora terra incognita. Ne sanno qualcosa quei 2,5 milioni di lavoratori che sono ancora senza cassa integrazione e quel 1 milione di autonomi senza i 600 euro. Ne sanno qualcosa quelle aziende che, nonostante gli interventi, faticano o non riescono ad ottenere la liquidità della quale hanno bisogno. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. I'm free to do what I want in any old town. I'm free to do what I want in any old town. Liberi, liberi, ma per quanto? Occhio ragazzi, che arriva un'altra stretta. Manca poco, manca poco. Le 6:30 minuti, venerdì 22 maggio, questo è 24 Mattino, bentornati. La task force di questa mattina, Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marco Tulli e Giorgio De Luca in assistenza e in redazione. Il resto della squadra, Gloria Guerrera in redazione, Margherita Ina, Francesco Ciaraffo, i nostri autori. E voi, voi, la vera task force di 24 Mattino. 349-238-6666, se volete intervenire le vostre voci, fatemele sentire. Scritte o con un messaggio vocale su WhatsApp. Dunque, questa giornata è una giornata che segue alla rissa parlamentare della quale in parte vi ha dato conto anche GR24. Sapete cos'è? Che francamente non sono state delle belle scene quelle di ieri, in questo periodo soprattutto, in una giornata nella quale l'INPS di fatto corregge l'Istituto Superiore di Sanità e ci fa sapere che rispetto ai calcoli dell'Istituto Superiore di Sanità ci sono stati 19.000 morti in più. Tutto inizia con tale Ricciardi del Movimento 5 Stelle che interviene sulla gestione sanitaria da parte della Lombardia. La delibera della Regione Lombardia d'inizio marzo, il presidente Luca Degani, parole sue, associazione di categoria che mette insieme circa 400 case di riposo, chiederci di ospitare pazienti con i sindromi Covid-19 è stato come accendere un cerino in un pagliaio. Colleghi, tornate ai vostri posti, colleghi, colleghi, colleghi, dovete tornare ai vostri posti. Sospendo la seduta. Così alla Camera. Arriva rapido il commento di Matteo Salvini. Questo piccolo uomo, questo ominicchio, chiami uno dei medici in trincea e si sciacqui la bocca prima di parlare della sanità lombarda e dei cittadini lombardi. Poi al Senato l'intervento di Matteo Salvini, qualcuno che gli ride dietro e anche qua scene non particolarmente gradevoli. Abbiamo sentito che Qualcuno si dovrebbe vergognare perché difende l'interesse nazionale? No. Per noi l'Italia e gli italiani vengono prima di tutti. Ci avete raccontato da quei banchi. Qua c'è gente che ride, mentre c'è a casa gente che non ha il pane da mangiare. Lei prima di ridere porti rispetti a chi è a casa e non ha una lira. Allora. E se ha voglia di ridere esca da quest'aula. Se ha tanto da ridere vada al bar a ridere. Si faccia un caffè e vada a ridere fuori di qua. E interviene poi la Presidente del Senato, Casellati. Abbiate rispetto, è questo il principio della democrazia. Siamo in un libero Parlamento dove tutti parlano e hanno tutti parlato. E ho ripreso tutte le interruzioni. Stia seduta e si metta la mascherina. Stia seduta. La smetta. Stia seduta e si metta la mascherina. Questa ce la teniamo da parte, Carmelo, ce la teniamo da parte. Oh, e poi l'intervento del Presidente del Consiglio, Conte in aula, a un certo punto gli viene da tossire e dall'opposizione dicono, appunto, si metta la mascherina. Sentiamo, sentiamo. Stiamo lavorando a un nuovo decreto legge dedicato proprio alla semplificazione amministrativa burocratica, che introdurrà molti elementi di novità per fornire all'Italia uno shock economico senza precedenti, in particolare nel settore delle infrastrutture. Dando laddove opportuno la concessione di poteri derogatori senza che ciò faccia venire meno i controlli più rigorosi. Panico in aula, panico. Panico in aula. va bene, va bene. No, ma non si offenda l'ascoltatore, immagino che è del appassionato del Movimento 5 Stelle o insomma, o semplicemente che la vede così. Ho detto tale Ricciardi riferendomi al parlamentare del Movimento 5 Stelle semplicemente perché non è un personaggio particolarmente noto, fa parte della schiera di quelli che comunemente, un po' brutalmente, vengono definiti peones, cioè quelli che non hanno una qualifica parlamentare, non sono particolarmente noti, insomma, questo è. Quindi non era offensivo dire tale Ricciardi, almeno spero che non lo sia. Cara Agnese Pini, direttrice della Nazione, come stai Agnese? Buongiorno, bentornata. Buongiorno, sto bene, grazie. Ottimo, ottimo, mi fa piacere. Allora Agnese, mi sembra che siamo tornati ad un filo di normalità nello scontro politico, per quanto questo non ci piaccia, almeno non con queste modalità. Sì, ma sono appunto modalità che ci fanno tornare in mente i tempi pre-Covid, quindi c'è un chiaroscuro, un po' di luce e ombra in questo gallinaio che è andato in scena ieri. Gallinaio, niente male, grazie. Tra l'altro il stia seduta e si mette la mascherina suona un po' come il nuovo salga a bordo. Sì, esatto, bravissimo, stia seduta e si mette la mascherina, stia seduta. Il tono è identico a quello del disastro del Giglio. Ma c'è una cosa curiosa in quello che è successo ieri che aumenta il grado di confusione un po' di tutti, anche di noi che impotenti restiamo a osservare queste scene, e cioè che l'intervento dell'onorevole Ricciardi lascia un senso di ambiguità, perché da un lato vuole demarcare il distacco fra i 5 Stelle e la Lega, quindi tra il nuovo asse 5 Stelle PD che si sposta a sinistra e che vede un po' Conte come nuovo garante, no, di questo spostamento sulla sinistra del blocco PD 5 Stelle, demarcando quindi la distanza con il vecchio alleato leghista. Dall'altro però va proprio contro a quanto aveva appena detto poco prima il Premier Conte, che di questo nuovo asse sembra appunto la figura più garantista, più solida, e che aveva fatto un appello di pace con le opposizioni per trovare intese su nuove linee comuni, quindi aveva utilizzato termini, toni, modalità, contenuti completamente e diametralmente opposti a quelli di Ricciardi, che ha innescato dunque una miccia incredibile, sì. Per cui a chi ha fatto più torto poi alla fine Ricciardi? Tanto che a un certo punto Giorgia Meloni accusa direttamente Conte di essere il mandante di questo intervento, cioè da esatto. una parte, no? Da una parte dire mettendolo in un grandissimo sì. imbarazzo anche istituzionale rispetto al ruolo del Premier, che giustamente si smarca e diceva io non controllo mica i discorsi dei parlamentari, poi vero o non vero, ma il punto è che davvero Ricciardi va in direzione ostinata e contraria a quanto detto un istante prima dal suo premier, che è anche espressione di un'area comunque tradizionalmente più pentastellata che democratica. Per cui alla fine la vera lettura di tutto questo probabilmente è il grande caos che si respira dentro i 5 Stelle, che sono spaccati, divisi, senza leadership. Buon punto Agnese, buon punto decisamente. Preciso gli ascoltatori, perché qua ovviamente si stanno già dividendo, no? Tra quelli che dicono Ricciardi in realtà ha ragione perché stigmatizzate, e altri che dicono questo Ricciardi come si permette, eccetera. Guardate, qua non abbiamo preso posizione su quello che ha detto Ricciardi. Certo. Io sono di quest'idea, allora, che il pollaio di ieri, il gallinaio, come l'ha definito Agnese Pini, di ieri in Parlamento, in una fase di questo genere, non è una scena piacevole da vedere. Detto ciò, ricordiamoci sempre che in Parlamento è successo di tutto negli anni, e anche in anni insospettabili, già prima, cioè no, già dai primi parlamenti italiani, insomma, dopo l'Unità d'Italia fino al dopoguerra, cioè si sono dette delle cose incredibili, degli insulti terrificanti, al confronto dei quali le cose che abbiamo visto ieri sono sul filo del fioretto, o quasi, insomma, per quanto si sia sfiorata la rissa. Allora, altro punto, la sanatoria o la regolarizzazione, insomma, ognuno la chiama come vuole. Sentiamo Conte, va. È stata inoltre introdotta, su impulso della ministra Bellanova, una norma che in presenza di determinate condizioni consente di far emergere il lavoro sommerso nei settori dell'agricoltura, delle attività di sostegno familiari. E qua l'attacco di Giorgia Meloni, che dice insomma, abbiate il coraggio di chiamarla com'è. Sa che cosa considero più vergognoso della sanatoria? Non avere il coraggio di difenderla. Chiami le cose con il loro nome, non se ne vergogni, perché se lei se ne vergogna vuol dire che è consapevole del fatto che quella norma è una norma sbagliata. Poi fa una battuta sulle lacrime della Bellanova e Maria Elena Boschi la riprende. E se deve parlare dell'interesse degli italiani, quando avrà fatto le 3 di notte, come ha fatto la ministra Bellanova, per salvare posti di lavoro seguendo 79 crisi occupazionali al governo, allora potrà parlare, non prima. E merita il rispetto di tutti, non di essere derisa per le lacrime. Da donna a donna, glielo dico, presidente Meloni, visto che lei è sempre attenta a questi temi quando le fa comodo. E qua il Parlamento, magari ci torniamo con qualche altro audio di questa intensa giornata parlamentare, mentre l'attenzione di molti si concentra sulla cosiddetta movida. Ieri ho chiesto a qualcuno su Facebook, lo chiedo anche a te Agnese, ti viene in mente un'altra, io non la so, la parola movida non la sopporto. mi fa impazzire, però la devo usare per spiegare di che cosa stiamo parlando, no? Allora, perché dato che non è solo l'aperitivo, è anche la vita serale, non è solo la vita serale, è anche l'aperitivo, sto faticando tantissimo a trovare una parola. Ti è venuto in mente qualcosa a te? Ma a Firenze avete qualcosa per dirlo? Non... Eh? che non è altrettanto, che non rende altrettanto bene l'idea, perché sarebbe la vecchia vita notturna, però vita notturna che fa triste, venire in mente altri tipi. È tristissimo. vita notturna. Vabbè, teniamo movida, va. Conte. In questa fase più che mai rimane fondamentale, anche quando siamo all'aperto, il rispetto delle distanze di sicurezza, ove necessario l'utilizzo delle mascherine. Non è ancora questo il tempo dei party, delle movide, degli assembramenti. Occorre fare attenzione. Il sindaco di Milano Sala. Avremo più pattuglie e ho chiesto al comandante dei vigili di procedere con più severità alle multe. Ma soprattutto ho chiesto al prefetto di chiudere quei locali che sono lontanissimi da ogni rispetto delle regole. Lo struscio, nightlife, propone qualcuno. Vabbè. La sindaca vai Agnese. No, dicevo solo che nightlife era solo la versione un po' più famous che inglese di vita notturna. Sì, ma è la stessa cosa. Chiara Appendino, vai. Il tema è sempre come vivi queste, come dire, libertà che abbiamo riconquistato con fatica. È chiaro che non vorremmo ritrovarci nella situazione di dover chiudere i locali e chiudere spazi di libertà. Mi permetto di segnalare quella che per me è una piccola contraddizione, ossia stiamo concentrando l'attenzione sulla, appunto, movida, sulla nightlife, sullo struscio, sulla vita notturna, quando poi, insomma, c'è un piccolo problema su tutta la parte di test, controllo, tracciamento, insomma tutta la parte che dovrebbe gestire la fase 2. Vi faccio sentire ieri il Presidente del Consiglio Conte sulla questione dei test sierologici, per esempio. Ce l'abbiamo, Carmelo? Vai, sui test sierologici, Conte. Lunedì 25 maggio partiranno test gratuiti su un campione di 150.000 cittadini per esclusive finalità di ricerca scientifica. Dovevano partire il 5 maggio, eh? Siamo con una ventina di giorni di ritardo su questi test sierologici che dovrebbero dare un quadro epidemiologico un po' più preciso. E l'app Immuni. Nei prossimi giorni partirà la sperimentazione su questa nuova applicazione e ricordo che il codice sorgente aperto potrà essere conosciuto da chiunque. Nei prossimi giorni i dati verranno impiegati solo per tracciare la diffusione del virus e cancellati non appena terminerà l'emergenza. L'app Immuni, che è stata un po' come il decreto, no? Che prima era aprile, poi è diventato maggio, poi è diventato rilancio. Traffico, va. Mattino. No Simone, non possono dare un'altra stretta, la devono smettere, dobbiamo convivere con il virus, anche perché se danno un'altra stretta moriamo di fame poi tutti quanti, dai. Facciano chiudere i bar dove si fanno gli happy hour e li facciano chiudere prima, io non posso richiudere perché quattro deficienti si ubriacano e bevono gli shortini all'ora dell'aperitivo. Vabbè, ma non sono i quattro deficienti che, a parte che, vabbè, insomma, non c'è niente di male a bersi quattro sciottini, però in condizioni di sicurezza naturalmente, non è questo, cioè il fatto che lo fai senza mascherina, tutti vicini, eccetera, eccetera, è questo il tema. Per essere proprio equanimi, visto che di Lombardia e di governo si parla, abbiamo citato l'app Immuni che ancora non c'è, i test sierologici che non arrivano, poi c'è tutto il capitolo lombardo che è stato al centro della scena ieri, oggi il Fatto Quotidiano racconta che secondo un rapporto riservato della regione dal 4 maggio su 20.000 persone circa con sintomi Covid segnalati alle aziende territoriali sanitarie è stato testato solo uno su tre. Problemi che si pongono di meno decisamente di meno in Svezia. Svezia, dove della quale si discute tantissimo in questi giorni perché ha tassi di mortalità molto alti e però ha scelto in maniera abbastanza decisa questa via dell'immunità di gregge. È con noi, e lo ringrazio per aver accettato il nostro invito, anche per l'orario indecoroso, Erik Gandini, regista italo-svedese, vive a Stoccolma, sua madre è svedese, suo padre tra l'altro è di Bergamo e quindi di un'area che qua in Italia è stata particolarmente colpita. Buongiorno e benvenuto, eccoci. Buongiorno. Allora, come la state vivendo in Svezia questa cosa? Per cui mi sembra di aver capito che è più o meno tutto libero, tutto aperto, asili nido aperti, scuole come sono messe? Aperte, sì. Allora, le scuole, mio figlio che ha 14 anni va a scuola, sono chiusi i licei e le università. Poi ci sono state una serie di consigli, non delle, diciamo, delle imposizioni o regole con rischi di multe, cioè l'approccio dell'autorità per la salute nazionale, che di fatto è quella che ha preso in mano tutto, cioè è la scienza, è una scienziocrazia. Sì. E ha proposto che se dobbiamo convivere con il virus per tempi lunghi dobbiamo adottare delle misure con le quali riusciamo a convivere, cioè a resistere per tanto tempo. Per cui sì, cioè, si può viaggiare ma non più di un'ora a distanza dove si abita. Ripeto, sono tutti consigli, non è che ti arrestano se non lo fai. Però i bar sono aperti, i ristoranti sono aperti, i lavori si fanno tanto da casa, se puoi, insomma. Sì, cioè rispetto all'Italia siamo stati in fase 2 sempre. Fase 2 sempre. E come sta reagendo il popolo svedese? Per quanto ovviamente, no, il tuo osservatorio possa essere, è chiaro, no, è l'osservatorio di una persona che ci vive, non di un sociologo ovviamente, ecco, no, per così dire. Però come stanno reagendo gli svedesi? Sì, è vero che i decessi sono più alti rispetto ai nostri vicini di casa, Danimarca, Finlandia, eccetera, Norvegia, eccetera, però la media è comunque più bassa dell'Italia, dell'Inghilterra, della Francia, insomma, per cui e poi sicuramente a livello sociologico, anche se non sono un sociologo, c'è comunque un po' questo orgoglio di aver scelto una strada anomala. C'è comunque questa, a livello forse più antropologico, questa che siccome ogni paese sta facendo, c'è un po' questa anche un po' subdola continuo confronto con gli altri, si vuole essere più bravi, però qua insomma c'è un grande appoggio a questa scelta. Erik, c'è un ascoltatore che ci scrive: il diverso senso della morte, che è un sentimento profondo, spiega i diversi atteggiamenti dei paesi. C'è anche un elemento di questo tipo? Direi soprattutto bisogna capire lo stile di vita svedese. Io ho fatto un film, La teoria svedese dell'amore, che racconta proprio questo, cioè un paese che fa autoisolamento da 50 anni, cioè tieni conto che è il paese con la percentuale più alta di abitazioni singole del mondo, la metà delle abitazioni sono composte da una persona sola, è il paese dove i giovani escono di casa, se la media europea è di 27 anni qua, escono di casa 18. È un paese dove connesso, dove il lavoro da casa si faceva tanto tempo, dove il cash non esiste e le effusioni, quando la gente si incontra per gli amici, non ci si tocca, non ci si baciucchia più di tanto. Insomma, ci sono una serie di cose che ovviamente io non conosco nessun anziano che vive vicino o in casa con i figli, cioè questa interazione fra le generazioni è molto diversa da Bergamo, dove sono cresciuto, per dire, cioè, e questo sicuramente spiega anche perché. E soprattutto alcune aree della provincia bergamasca ancora di più, naturalmente, Erik. Molto. Sì, appunto. Poi chissà, perché diciamo lo tsunami c'è stato a Bergamo, non c'è stato in Lombardia, non c'è stato qua, questo se ne discuterà. Comunque qua relativamente sì, ci sono tanti morti, come dicevo, rispetto ai paesi nordici, però la media comunque è più bassa di quella europea, per cui poi si parla sempre di... Cioè, il messaggio che passa è: aspettiamo a tirare le somme fra un anno, perché sì, adesso è troppo presto. E quindi gli ultimi dati che sono arrivati, no? Questi che indicano sì, 6,08 decessi per milione di abitanti al giorno contro un 5,57 in Gran Bretagna, 3 in Italia, eccetera, eccetera, non dico né caldo né freddo, ma quasi. Guarda, c'è comunque questa enorme fiducia fra il cittadino e le istituzioni qua, e soprattutto fra, in questo momento, fra i cittadini e gli epidemiologi che hanno preso in mano la situazione, e anche qui c'è un po' questo confronto con gli altri paesi in cui si dice sì, ma le misure che hanno preso così, diciamo, drastiche, draconiane in tanti paesi sono spesso populiste, perché i politici vogliono farsi vedere forti, ma in realtà non hanno molto senso. Per cui qua, per esempio, io ripeto, non so come chi avrà ragione alla fine, però le mascherine, per esempio, vengono considerate inutili, non si usano. Stranissimo. La chiusura delle scuole, degli asili, è anche quella una cosa fatta perché si pensa che i bambini non contagino. Infatti, insomma, la metà dei decessi qua sono nelle case di cura per gli anziani, come che è un fenomeno di fatto europeo. Sì, per cui no, per confermare, sì, non c'è questa diciamo critica ancora così. Si parla, ripeto, siccome comunque il numero di morti su un milione di abitanti sono comunque più bassi dei paesi, degli altri paesi europei. Sì, in realtà gli ultimi dati sono un po' diversi, però insomma. Sì, no, sono dati che però hanno a che fare con una fase che cui tutti i paesi sono passati, per cui insomma. Curioso. E Agnese Pini, solo in 20 secondi, sembra di sentire un extraterrestre, non Eric Gandini naturalmente, dico però il mondo del quale ci sta parlando, la Svezia. Abbiamo un DNA completamente diverso, direi, ma non solo gli italiani e gli svedesi, ma un po' l'Europa più qui del continente, no? Francia, Spagna, Italia, la stessa Inghilterra sta dimostrando di essere molto più simile a noi che non ai paesi del nord. Sì. Il tema qui è quello della fiducia, lo diceva prima il regista, ma è proprio vero, cioè la fiducia dei cittadini nei confronti dei loro politici, delle loro istituzioni, quindi anche dei loro virologi, qui da noi è storicamente, tradizionalmente molto diversa, sì, logorata, tendenzialmente è sospettosa, sì, rispetto a quanto non avvenga. E le scene di ieri naturalmente non aiutano. Grazie Agnese Pini, direttrice della Nazione, grazie Eric Gandini, regista italo-svedese, tra le sue opere La teoria svedese dell'amore e molti altri. Grazie ancora, andiamo a chiudere, Carmelo. Sia seduta e si metta la mascherina. Sia seduta. Va bene, Carmelo Lauricella si è divertito un po' nel frattempo. Ci risentiamo tra poco dopo GR24 con la rassegna stampa.